dai a quella grande bagaccia, ma tu invece, eh? Vabbè, che domani per... vabbè. Non è più... Non passi, Andrea. Ma tu è che ti faccio scrivere in testa tutta la notte a casa tua, un brutto coglione froscio. Non è un barattino tu, vero? Eh? Poi quando rompe coglione a tua madre, ti lamenti. Stronzo. Bella pompa, te la fai fare da quella grande bagaglia, mamma tua, capito? Che me lo si coglioni! Se non ti faccio copiare nessuno, vaffanculo, più tu.